Bella domanda. Allora, sono una giovane donna che sta cercando di costruire il proprio posto nel mondo anche attraverso la creatività, alimentandosi in buona parte di creatività e tendendo ad essa in buona parte della giornata e non solo sul lavoro, anche al di fuori, cercando di avere un approccio alla vita creativo, ecco. La radio è tante cose. E anche naturalmente arte contemporanea. E contemporanea anche solo perché è in contatto 24 ore su 24 con chi l'ascolta, interagisce 24 ore su 24 con chi è connesso su una qualsiasi stazione, quindi segue la vita degli altri, è nella vita degli altri ed entrando nelle case, nei posti di lavoro, negli uffici, nelle macchine, entrando ormai dappertutto, addirittura adesso anche attraverso i cellulari, eccetera, è diventata parte integrante del nostro modo di essere e ha plasmato anche probabilmente in buona parte il nostro modo di ascoltare. Io lavoro nello studio di progettazione Molle & Partners di Terni, il mio ruolo principale è quello di copywriter, quindi lavoro con le parole Sto scoprendo sempre di più che a volte più sono leggere, più vengono trattate con leggerezza, più possono essere pesanti. Quindi bisogna stare molto attenti ad utilizzarle, a manipolarle. E possono lanciare dei messaggi molto, molto forti ed è bene che vengano valutate con attenzione anche negli ambiti appunto più creativi. Sono responsabile del progetto Utilità Manifesta, che è un'associazione di promozione sociale nata nel 2004, con cui io e la mia struttura ci occupiamo di design socialmente utile. Design socialmente utile perché cerchiamo di portare il design in strada, cerchiamo di renderlo partecipe della vita degli altri, cerchiamo di avvicinarlo alle problematiche quotidiane delle persone partendo dal minuscolo. Ci piace molto questa espressione, il minuscolo, perché spesso siamo presi dal macroscopico, da quello per cui non dobbiamo sforzarci di vedere veramente le cose per quello che sono. Noi vogliamo veicolare una visione dal basso, mettere l'uomo al centro e cercare attraverso il design delle letture alternative della vita, cercando di risolvere concretamente dei problemi, piccoli o grandi che siano, e da soli, ma ancor meglio sarebbe in rete con chi desiderasse fare rete con noi. La capacità di ascolto, la capacità di cogliere anche le emozioni che condizionano in un momento piuttosto che in un altro, le personalità delle persone, il saperle interpretare e riproporre è fondamentale. Per fare tutto questo ci vuole gentilezza per ciò che si vede, per ciò che si osserva, ci vuole discrezione, ci vuole partecipazione. Se non partecipi, se non sei in contatto, se non fai rete, se non osservi, resti isolato, sei solo.